Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Maggio 1910. Chi andava a far visita alle vecchie signorine Salina trovava quasi sempre almeno un cappello di prete sulle sedie dell'anticamera. Le signorine erano tre. Segrete lotte per l'egemonia casalinga le avevano dilaniate e ciascuna di esse, caratteri forti a proprio modo, desiderava avere un confessore particolare. Come in quell'anno 1910 si usava ancora, le confessioni avvenivano in casa e gli scrupoli delle penitenti esigevano che esse fossero frequenti. A quel plotoncino di confessori bisognava aggiungere il cappellano, che ogni mattina veniva a celebrare la messa nella cappella privata, il gesuita, che aveva assunto la direzione spirituale generale della casa, i monaci e i preti, che venivano a riscuotere elargizioni per questa o per quella parrocchia o opera pia. E si comprenderà subito come il via vai di sacerdoti fosse incessante e perché l'anticamera di Villa Salina ricordasse spesso uno di quei negozi romani intorno a Piazza della Minerva che espongono in vetrina tutti i copricapo ecclesiastici immaginabili, da quelli color di fiamma dei cardinali a quelli color tizzone per curati di campagna. In quel tale pomeriggio di maggio 1910 l'adunata di cappelli era addirittura senza precedenti. La presenza del vicario generale dell'archidiocesi era attestata dal suo vasto cappello di fine castoro, di un delizioso color fucsia, adagiato su di una sedia appartata, con accanto un guanto solo, il destro, in seta intrecciata del medesimo delicato colore. Quello del suo segretario, da una lucente peluche nera a peli lunghi, la calotta del quale era circondata da un sottile cordoncino violetto. Quella di due padri gesuiti, dai loro cappelli dimessi in feltro tenebroso, simboli di riserbo e modestia. Il copricapo del cappellano giaceva su una sedia isolata, come si conviene, a quello di persona sottoposta a inchiesta. La riunione di quel giorno, infatti, non era roba da poco. In esecuzione di disposizioni pontificie, il cardinale arcivescovo aveva iniziato una ispezione agli oratori privati dell'archidiocesi, allo scopo di assicurarsi dei meriti delle persone che avevano l'autorizzazione di farvi officiare, della conformità dell'arredamento e del culto ai canoni della Chiesa, dell'autenticità delle reliquie in esse venerate. La cappella privata delle signorine Salina era la più nota della città e una delle prime che Sua Eminenza si proponeva di visitare. E proprio per predisporre questo avvenimento fissato per l'indomani mattina, Monsignor Vicario si era recato a Villa Salina. Alla curia arcivescovile erano pervenute, sgocciolate attraverso chissà quali filtri, voci incresciose in relazione a quella cappella. Non certo in rapporto ai meriti delle proprietarie e al loro diritto di adempiere in casa propria i loro doveri religiosi. Questi erano argomenti fuori discussione e neppure si poneva in dubbio la regolarità e la continuità del culto, cose che erano quasi perfette se si volesse trascurare una soverchia riluttanza, del resto comprensibile, delle signorine Salina a far partecipare ai riti sacri persone estranee alla loro più intima cerchia familiare. L'attenzione del cardinale era stata attratta su di una immagine venerata nella cappella e sulle reliquie, sulle diecine di reliquie esposte. Circa l'autenticità di esse erano corse le dicerie più inquietanti e si desiderava che la loro genuinità venisse comprovata. Il cappellano, che pure era un ecclesiastico di buona cultura e di migliori speranze, era stato rimproverato con energia per non aver sufficientemente aperto gli occhi alle vecchie signorine. Egli aveva avuto, se è lecito esprimersi così, una lavata di tonsura. Thank you. La riunione si svolgeva nel salone centrale della villa, quello delle Bertucce e dei Pappagalli. Le tre sorelle erano tutte poco al di qua o poco al di là della settantina, e Concetta non era la maggiore, ma la lotta egemonica alla quale si è fatto cenno all'inizio, essendosi chiusa da tempo con la debellazio delle avversarie, nessuno avrebbe mai pensato a contestarle il rango di padrona di casa. Nella persona di lei emergevano ancora i relitti di una passata bellezza. Grassa e imponente nei suoi rigidi abiti di moire nera, portava i capelli bianchissimi rialzati sulla testa in modo da scoprire la fronte quasi indenne. Questo, insieme agli occhi sdegnosi e ad una contrazione astiosetta al di sopra del naso, le conferiva un aspetto autoritario e quasi imperiale. La conversazione durava da un'ora. Il caffè era stato preso e si faceva tardi. Monsignor Vicario riassunse i propri argomenti. «Sua Eminenza paternamente desidera che il culto celebrato in privato sia conforme ai più puri riti di Santa Madre Chiesa, ed è proprio per questo che la sua cura pastorale si rivolge fra le prime alla vostra cappella, perché egli sa come la vostra casa splenda faro di luce sul laicato palermitano e desidera che dalla ineccepibilità degli oggetti venerati scaturisca maggiore edificazione per voi stesse e per tutte le anime religiose». Concetta taceva, ma Carolina, la sorella maggiore, esplose. «Adesso ci dovremo presentare alle nostre conoscenze come delle accusate. Questa di una verifica alla nostra cappella è una cosa, scusatemi, monsignore, che non avrebbe dovuto nemmeno passare per la testa di Sua Eminenza». Monsignore sorrideva, divertito. «Signorina, lei non immagina quanto la sua emozione appaia grata ai miei occhi. Essa è l'espressione della fede ingenua, assoluta, graditissima alla Chiesa e certamente a Gesù Cristo nostro Signore. Ed è soltanto per più far fiorire questa fede e per purificarla che il Santo Padre ha raccomandato queste revisioni, le quali, d'altronde, si vanno compiendo da qualche mese in tutto l'orbe cattolico». Il riferirsi al Santo Padre non era a dir vero opportuno. Carolina, infatti, faceva parte di quelle schiere di cattolici che sono persuasi di possedere le verità religiose più a fondo del Papa, ed alcune moderate innovazioni di Pio X, l'abolizione di alcune secondarie feste di precetto in specie, la avevano già prima esasperata. Questo Papa dovrebbe badare ai fatti propri, farebbe meglio. Poiché le sorse il dubbio di essere andata troppo oltre, si segnò, mormorò un Gloria Patri. Concetta intervenne. «Non lasciarti trascinare a dire cose che non pensi, Carolina, che impressione riporterà di noi, monsignore, qui presente?» Questi, a dir vero, sorrideva più che mai. Pensava soltanto che si trovava di fronte a una bambina invecchiata nella ristrettezza di idee e nelle pratiche senza luce, e benigno indulgeva. «Monsignore pensa che si trovi dinanzi a tre sante donne», disse. Padre Corti, il gesuita, volle rallentare la tensione. «Io, monsignore, sono fra quelli che meglio possono confermare le vostre parole. Padre Pirrone, la cui memoria è venerata da quanti lo hanno conosciuto, mi narrava spesso, quando ero novizio, del santo ambiente nel quale le signorine sono state allevate. Del resto, il nome di Salina basterebbe a render conto di tutto». Monsignore desiderava giungere a fatti concreti. «Piuttosto, signorina Concetta, adesso che tutto è stato chiarito, vorrei visitare, se loro lo permettono, la cappella per poter preparare Sua Eminenza alle meraviglie di fede che vedrà domattina». Thank you. Quando Monsignore entrò, la cappella era illuminata dal sole del pomeriggio calante e al di sopra dell'altare il quadro veneratissimo dalle signorine si trovava in piena luce. Era un dipinto nello stile di Cremona e rappresentava una giovinetta esile, assai piacente, gli occhi rivolti al cielo, i molli capelli bruni sparsi in grazioso disordine sulle spalle seminude. Nella destra essa stringeva una lettera spiegazzata. L'espressione sua era di trepida attesa, non disgiunta da una certa letizia che le brillava nei candidissimi occhi. Nel fondo verdeggiava un mite paesaggio lombardo. Niente Gesù bambini, né corone, né serpenti, né stelle. Nessuno, insomma, di quei simboli che sogliono accompagnare l'immagine di Maria. Il pittore doveva essersi fidato che l'espressione verginale fosse sufficiente a farla riconoscere. Monsignore si avvicinò, salì uno dei gradini dell'altare e, senza essersi segnato, rimase a guardare il quadro per qualche minuto, esprimendo una sorridente ammirazione, come se fosse stato un critico d'arte. Dietro di lui le sorelle si facevano segni della croce e mormoravano delle Ave Maria. Poi il prelato ridiscese il gradino, si volse. «Una bella pittura», disse, «molto espressiva». «Una immagine miracolosa, monsignore, miracolosissima», spiegò Caterina. «Quanti miracoli ha fatto!» Carolina incalzava. «Rappresenta la Madonna della Lettera. La Vergine è sul punto di consegnare la santa missiva ed invoca dal Figlio Divino la protezione sul popolo messinese, quella protezione che è stata gloriosamente concessa, come si è visto, dai molti miracoli avvenuti in occasione del terremoto di 2 anni fa. Bella pittura, signorina. Qualunque cosa rappresenti è un bel quadro e bisogna tenerlo da conto». Poi si volse alle reliquie. 74 ve ne erano e coprivano fitte le 2 parti di parete di fianco all'altare. Ciascuna era chiusa in una cornice che conteneva anche un cartiglio con l'indicazione di che cosa fosse e un numero che si riferiva alla documentazione di autenticità. Carolina era stata la vera creatrice di questa raccolta. Aveva scovato Donna Rosa, una grassissima vecchia per metà monaca, che aveva portato a Villa Salina ogni paio di mesi una reliquia di santi avvolta in carta velina. Era riuscita, diceva, a strapparla ad una parrocchia disagiata o a un casato in decadenza. Poi Donna Rosa morì e l'afflusso delle reliquie cessò quasi del tutto. Del resto, era sopravvenuta una certa sazietà. Monsignore guardò con una certa fretta alcune delle cornici più a portata di vista. «Tesori», diceva, «tesori, che bellezza di cornici!» Poi, congratulandosi dei belli arredi, proprio così disse, dantescamente, e promettendo di ritornare l'indomani con Sua Eminenza, sì, alle 9 precise, si genuflettè e si segnò, rivolto a una modesta Madonna di Pompei appesa su una parete laterale, e uscì dalla cappella. Monsignore tenne ad avere nella propria carrozza il cappellano, padre Titta, che da questa distinzione fu molto confortato. Quando si giunse alla discesa verso Palermo, fra gli aranceti, Monsignore parlò. «E così lei, padre Titta, ha avuto il fegato di celebrare per anni il santo sacrificio dinanzi al quadro di quella ragazza? Di quella ragazza che ha ricevuto l'appuntamento ed aspetta l'innamorato. Non venga a dirmi che anche lei credeva che fosse un'immagine sacra. Monsignore, sono colpevole, lo so, ma non è facile affrontare le signorine Salina, la signorina Carolina. Lei questo non può saperlo». Monsignore rabbrividì al ricordo. «Figliolo, hai toccato la piaga col dito. E questo sarà preso in considerazione». Thank you. Carolina era andata a sfogare la propria ira in una lettera a Chiara, la sorella sposata a Napoli. Caterina, stancata dalla lunga conversazione penosa, era stata posta a letto. Concetta rientrò nella sua camera solitaria. Sulle pareti ritratti, acquarelli, immagini sacre, tutto pulito, in ordine. Due cose soltanto potevano forse apparire inconsuete. Nell'angolo opposto al letto un torreggiare di quattro enormi casse di legno dipinte in verde, ciascuna con un grosso lucchetto, e davanti ad esse, per terra, un mucchietto di pelliccia malandata. Al visitatore ingenuo la cameretta avrebbe semmai strappato un sorriso, tanto chiaramente vi si rivelava la bonarietà, la cura di una vecchia zitella. Per chi conoscesse i fatti, per Concetta, essa era un inferno di memorie mummificate. Le quattro casse verdi contenevano dozzine di camicie da giorno e da notte, di vestaglie, di federe, di lenzuola accuratamente suddivise in buone e andanti. Il corredo di Concetta invano confezionato 50 anni fa. Quei chiavistelli non si aprivano mai, per timore che saltassero fuori demoni incongrui e sotto l'ubiquitaria umidità palermitana la roba ingialliva, si disfaceva, inutile per sempre e per chiunque. Se si fosse ben guardato nel mucchietto di pelliccia tarlata, si sarebbero viste due orecchie erette, un muso di legno nero, due attoniti occhi di vetro giallo. Era Bendicò, da 45 anni morto, da 45 anni imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme, aborrito dalle persone di servizio che da decenni ne chiedevano l'abbandono all'immondezzaio. Ma Concetta vi si opponeva sempre. Essa teneva a non distaccarsi dal solo ricordo del suo passato, che non le destasse sensazioni penose. Ma le sensazioni penose di oggi, a una certa età ogni giorno presenta puntuale la propria pena, si riferivano tutte al presente. Assai meno infervorata di Carolina, assai più sensibile di Caterina, Concetta aveva compreso il significato della visita di Monsignor Vicario e ne prevedeva le conseguenze: l'allontanamento ordinato per tutte o quasi le reliquie, la sostituzione del quadro sull'altare, l'eventuale necessità di riconsacrare la cappella. La rimozione di quegli oggetti le era indifferente. Ciò che la pungeva, ciò che costituiva l'assillo di quel giorno, era la brutta figura che Casa Salina avrebbe fatto adesso di fronte alle autorità ecclesiastiche e fra poco di fronte alla città intera. Una cameriera entrò. «Eccellenza, sta arrivando la principessa, l'automobile nel cortile». Concetta si alzò, si ravviò i capelli, buttò sulle spalle uno scialle di merletto nero, riassunse lo sguardo imperiale e giunse in anticamera mentre Angelica saliva gli ultimi gradini della scalinata esterna. Soffriva di vene varicose e le sue gambe, che sempre erano state un pochino troppo corte, la sostenevano male e veniva su appoggiata al braccio del proprio servitore, il cui lungo pastrano nero spazzava salendo gli scalini. «Concetta cara!» Angelica mia, da quanto tempo non ci vediamo? Dall'ultima visita erano passati soltanto 5 giorni, per essere precisi, ma l'intimità fra le due cugine, intimità simile per vicinanza e per sentimenti a quella che pochissimi anni dopo avrebbe stretto italiani ed austriaci nelle contigue trincee, l'intimità era tale che 5 giorni potevano veramente sembrar molti. In Angelica, che era vicina ai 70 anni, si scorgevano ancora molti ricordi di bellezza. La malattia che 3 anni dopo la avrebbe trasformata in una larva miseranda era già in atto, ma se ne stava acquattata nelle profondità del suo sangue. Gli occhi verdi erano ancora quelli di un tempo, gli anni li avevano soltanto lievemente appannati e le rughe del collo erano nascoste dai soffici nastri neri della capote che essa, vedova da 3 anni, portava con una civetteria che poteva sembrare nostalgica. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it